La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Luigi De Filippo nasce a Napoli in un giorno di agosto del 1930. Sulla scena il piccolo Luigi praticamente cresce. Il teatro è una casa e Luigi impara al fianco di due giganti, lo zio Edoardo e il padre Peppino. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53 e al centesimo catenaccio. Alla sera qua poi viene una cascata d'acqua. Ehi, tutta la cascata d'acqua, qua tutti i pastori che vengono, il pescatore, e l'acqua che scende dalla montagna, veramente, l'acqua vera faccio scendere. Sì, l'acqua vera. L'acqua vera, si mette l'interoclisma dietro, si apre la chiavetta e scende l'acqua vera. Ti piace? No. Ma se quello non è finito ancora, come puoi dire non mi piace? Eppure quando è finito non mi piace. Caccia fa, non mi piace e basta. E battendo, hai capito? Vai. Esci di casa mia. In da casa mia non ti voglio tenere più. Ti trovo un mestiere, un lavoro qualunque e campo con i soldi tu. Sì, esci, signori, vai. me ne vado. Stai lontana da sto cuore e a te volo con pensiero, niente voglia e niente spera, cade nirte sempre a fianco a me. Sono loro, Edoardo e Peppino De Filippo, come dirà spesso, i suoi maestri, maestri dai quali si sgancerà ancora giovane per provare a camminare sulle sue gambe. Questa sarà la sua prima volta. E chi sto cuore si stata o prima amore o prima l'ultimo sarai con me. Questa è la prima volta di un uomo che ha attraversato la storia del nostro paese e che oggi si ritrova a dover fare i conti con la peggior crisi che il teatro abbia mai attraversato. Ma partiamo dall'inizio. Non ti senti in tasti braccia, non ta vaso che sta faccia, non ta stringe forte. Senta, io le voglio fare alcune domande anche su di lei, perché appunto lei non mi capiterà sicuramente altre volte di averla così. Io sarò qui, mi dica. No, perché lei ha una storia meravigliosa, artisticamente è una persona che ha fatto una carriera eccezionale e quindi anche sentire dal suo osservatorio questo intanto mi rammarica, perché è brutto appunto che il teatro sia arrivato a questo livello, però le volevo chiedere, lei se lo ricorda com'era il teatro quando iniziò lei proprio a calcare le scene? Beh, certamente erano gli anni 50. E allora era la gente che era diversa, era la nostra società che era differente, c'era più speranza nell'avvenire, perché venivamo tutti in fondo dal dopoguerra e quindi in tutti c'era la voglia di rimboccarci le maniche e costruirci per noi e per i nostri figli, i nostri nipoti, un avvenire migliore, e quindi c'era anche più attenzione alla cultura, più interesse verso il teatro, verso il cinema. Infatti sono stati per il teatro, per il cinema italiano, sono stati anni d'oro, sono gli anni in cui è venuto fuori il neorealismo, poi piano piano la commedia italiana, in teatro ci sono state delle grandi personalità che si sono affermate, a parte Peppino De Filippo e Edoardo De Filippo, ma i giovani, Romolo Valli, De Lullo, Padroni Griffi, insomma gente che allo spettacolo, al teatro in particolare, hanno dato tanto, molto, molto, hanno contribuito a migliorare il teatro italiano. Lei se lo ricorda il primo debutto esterno alla compagnia di suo padre? Ma certamente, io negli anni, diciamo così, 65, io ho avuto delle esperienze teatrali al di fuori della compagnia di mio padre, quando ho cominciato a costruire il mio percorso artistico, ed è stato a Spoleto. Io sono andato al Festival di Spoleto con un bellissimo spettacolo con Giancarlo Sbragia, Edomondo Aldini, Duilio Del Prete, sulla commedia dell'arte, e fu una bellissima esperienza perché lo spettacolo piacque tanto che ci invitarono a recitarlo a Parigi, al Teatro di Champs-Élysées, al Piccolo Teatro di Milano, a Venezia, al Festival. Insomma, quella mia evasione dal teatro di mio padre fu molto fortunata e fu l'inizio della realizzazione di tanti miei sogni artistici, perché io poi da allora poi ho avuto una compagnia mia e ho camminato con le mie gambe dopo quello che mi aveva insegnato mio padre, che è stato il mio maestro. Senta, l'ultima domanda che le faccio è se lei oggi consiglierebbe a un ragazzo, a un ragazzino, di fare teatro come mestiere per la propria vita. Ma sì, perché oggi non c'è niente di certo, di sicuro, nessun lavoro è sicuro, quindi anche la precarietà del teatro, che è così altalenante, non ci sono sicurezze nel mondo dello spettacolo. Quando credi di essere arrivato devi ricominciare da capo, e quindi vale la pena anche fare una professione come quella dell'artista, che comunque ti provoca delle emozioni indimenticabili, delle belle emozioni, e quindi un ragazzo poi sarà sempre ricordare di aver fatto quello che sognava, almeno per qualche anno nella vita. La prima volta, a cura di Cristina Carpinelli. Ah, che schifo! Che schifo mi fa l'umanità! A me l'umanità è inutile, inutile. Io ci penso che l'umanità mi fa schifo, schifo. Schifo, schifo, schifo. Eh? Schifo. Schifo, schifo. Schifo. Proprio schifo mi fa. È schifezza. Distiralo bene questo pantalone, sì, capito? Papà, che... sì. E poi fa presto, perché l'appuntamento è alle 4 e sono già le ripassate. Ah, e dove devi andare, papà? Dove devo andare? A un matrimonio. Ah, okay. Non te l'ha detto, mamma? No, ecco, è la figura. A un matrimonio di questi tempi, mamma mia, io rabbrividisco, che ipocrisia, contrarre matrimonio. C'è ancora gente che pensa di sposarsi con i guai, che ci stanno le preoccupazioni, ma non è vero, sono tutti interessi. Che schifo l'umanità, mamma mia, a me l'umanità mi fa schifo, mamma. Io mi sogno l'umanità proprio schifosa, io me la sogno, proprio voi mi fate schifo, ma... tutte e due. No, che c'è, non equivochiamo, non come familiari, che vuol dire? Quella famiglia è un'altra cosa, non equivochiamo. La famiglia sta in cima ai miei pensieri, e voi lo sapete, avete le prove che mi sono consumato per la famiglia, sì. In cima ai miei pensieri, non come familiari, ma come umanità sì, voi che ne fate parte mi fate schifo, ecco tutto. Vabbè. Il teatro di Edoardo e Peppino De Filippo cambia la storia del teatro, e non solo quello partenopeo, del teatro italiano. I testi, la comicità e l'intensità delle loro battute sono ancora oggi inarrivabili. Luigi cresce con loro in una famiglia che, come tutte le famiglie, attraverserà momenti meravigliosi e altri di fatica. Luigi oggi ha 82 anni. Due anni fa diventa direttore artistico del Teatro Parioli, in un momento in cui il teatro sembra pronto a finire la sua storia. Luigi e la moglie si rimboccano le maniche e così il teatro riprende forza. Mi stiene sti bracci, aiutami a tirare, casto mare. Il desiderio di voler vedere che questa città della scienza, che è stata bruciata nello scorso mese di marzo a Napoli, risorga al più presto nel posto giusto. Senta, lei è appunto col cuore fermo a Napoli, e soprattutto quello della città della scienza è stato un evento che ha toccato tutti quanti noi italiani, certamente. Non solo i napoletani. No, perché è stato un evento negativo che ha colpito non solo la cultura napoletana, ma la cultura del mondo, perché in quei capannoni così ben attrezzati si raccontava la storia dell'uomo, come le conquiste della scienza che hanno reso l'uomo civile, diciamo. Lei, quando ha sentito della notizia, che cosa ha avuto? Cioè, che reazione ha avuto appena sentito? Chiaramente, è ovvio, no? Mi è dispiaciuto, sono rimasto colpito. E ho pensato subito, nel mio piccolo, gestendo un teatro qui a Roma, di fare una serata a favore della ricostruzione di questa città della scienza che, ripeto, ci auguriamo possa avvenire al più presto. Senta, lei è modesto, dice nel mio piccolo, in realtà sappiamo tutti qual è la sua storia e anche il fatto di avere la direzione artistica di un teatro come il Parioli è una cosa molto importante. Molto impegnativo soprattutto. È impegnativo, ecco, questo le volevo chiedere, impegnativo sul fronte proprio della difficoltà che sta attraversando il mondo del teatro in questo momento o in generale? No, in relazione al momento difficile che sta attraversando la nazione e il mondo della cultura in particolare, la cultura è stata molto penalizzata dalle tasse, dai tagli che sono stati fatti e noi, io e mia moglie Laura che gestiamo questo teatro a Roma, abbiamo avuto molte difficoltà da superare poi dopo col nostro impegno personale per presentare al pubblico un cartellone degno, facendo base solo sulle nostre forze, non ci ha aiutato nessuno e tantomeno le istituzioni che ci hanno completamente ignorato. Ma questo, perché sta avvenendo un delitto così grave secondo lei? Secondo me per l'indifferenza della classe dirigente che non ha alcuna considerazione della cultura, pensa che sia un peso e non un investimento come dovrebbe essere. È vita pure stella, tu fai innamorare. Luigi De Filippo fa parte di una famiglia di attori, artisti di talento unico, persone che per il teatro, come disse Edoardo, sacrificarono tutto. Questo che vi facciamo sentire è l'ultimo discorso pubblico di Edoardo. Era il 1984, una sorta di testamento per chi vuole iniziare questa carriera. Fare teatro sul serio significa sacrificare una vita. Sono cresciuti i figli e non me ne sono accorto. Meno male che mio figlio è cresciuto bene. Questo è il dono più grosso, più importante che io ho avuto dalla natura. Senza mio figlio, forse io me ne sarei andato all'altro mondo tanti anni fa. E io devo a lui il resto della mia vita. Lui ha contraccambiato in pieno. Scusate se io faccio questo discorso e parlo di mio figlio. Non ne ho mai parlato. Si è presentato da sé, è venuto dalla cavetta, dal niente. Sotto il gelo delle mie abitudini teatrali, quando sono in palcoscenico a provare, quando ero in palcoscenico a recitare, è stata tutta una vita di sacrifici e di gelo. Così si fa il teatro, così ho fatto, ma il cuore ha tremato sempre, tutte le sere, tutte le prime rappresentazioni, e l'ho pagato. Anche stasera mi batte il cuore e continuerà a battere anche quando si sarà fermato. prima volta termina qui. Grazie per l'attenzione e per le cose che mi scrivete all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Se volete riascoltarci, scaricate il podcast oppure venite a visitare il blog. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. Passo di back and forth, tutto cresce e se ne va. Passo di bene, va bene a chi. Voglio solo, ma asciutare.